ti è sembrata organizzare questa giornata? Allora, io da ex sportiva ho provato un'emozione impressionante, devo dire la verità. Poi vedere soprattutto questi atleti in carrozzina, che niente da togliere agli altri, però mi sono sembrati ancora più forti, di animo veramente tenace. Quindi una bellissima emozione. Stefania Garrone, ho avuto l'opportunità di moderare questa giornata voluta dal Ministero della Pubblica Istruzione, che promuove appunto lo sport nella scuola, e trovo che sia stata una giornata bellissima, densa di emozioni anche qualche lacrima, e trovo che sia il modo più bello per arrivare ai ragazzi, poi lo sport è questo, mi raccomando, più sport a scuola e vince la vita. Sono Antonella Miceli, sono un'insegnante di educazione fisica che da sempre ho fatto sport, credo nello sport e nonostante la mia età mi alleno ancora 3-4 volte alla settimana. Io invito i miei alunni a far sì che lo sport diventi un elemento fondamentale nella vita, perché ti dà tanto, ti dà tanti valori, ti fa capire le leggi della vita, le regole della vita, i veri valori, il rispetto dell'altro. Lo sport educa, certe volte la scuola magari stenta a capirlo, e soprattutto invito i ragazzi a praticare sport più attivo, perché nelle fasce che noi incontriamo a scuola, nelle fasce dei 14 ai 18 anni, purtroppo ci sono sempre meno ragazzi che fanno sport attivo, e quindi il mio è proprio un invito a praticarlo, a essere un elemento fondamentale della vostra vita. Sono Antonella Manganiello, sono una collaboratrice dell'ufficio sport, attività motorie sportive della Direzione Generale per lo Studente. La Direzione Generale per lo Studente si occupa appunto di organizzare tutte le attività che servono per mettere in rilievo le protagonismo giovanile. In questo caso Più Sport a Scuola e Vince la Vita è un progetto che nasce da una volontà proprio dalla direttiva del Ministro, che con questo slogan ha voluto lanciare lo sport come elemento fondamentale nell'educazione e nella formazione dei ragazzi da tutti i punti di vista, non soltanto quello psicofisico, come si suol dire, ma anche dal punto di vista di formazione alla solidarietà, alla legalità in genere, e quindi è proprio questo importantissimo. È soddisfatta dell'esito che ha avuto oggi l'incontro qui a Fermi? Devo fare i complimenti, perché i ragazzi che hanno collaborato sono stati bravissimi, quelli dello staff, le cosiddette magliette gialle che avevamo oggi, sono stati veramente bravi, si sono mossi già da ieri pomeriggio, sono venuti, abbiamo concordato come si devono muovere e hanno fatto veramente quello che dovevano, sono stati veramente molto in gamba. Poi vabbè, la scuola ha risposto molto bene in generale, io do soltanto un cenno proprio così in più a questi che hanno fatto lavoro in più, però tutta la scuola si è mossa bene, le domande erano veramente tante, interessanti, i ragazzi mi sembra che siano stati anche contenti, anche i ragazzi che hanno partecipato come pubblico. Sicuramente abbiamo avuto un grande successo di atleti, cosa che ci tengo a sottolineare. Gli atleti che sono stati invitati, normalmente ne viene sempre invitato qualcuno in più perché si conta che ci sia qualche problema dell'ultimo momento, ne sono venuti due in più di quelli previsti, proprio tutti, ma non previsti, cioè, chiaramente in senso ironico, ma veramente tutti. E evidentemente è un complimento anche alla Sicilia, che è una terra di atleti, di sportivi, e quindi si è potuto veramente toccare con mano.